Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Ci sono stati periodi qui in cui i morti si contavano quotidianamente, spesso ammazzati in pieno giorno e davanti a passanti terrorizzati. E ci sono stati periodi qui in cui anche per errore si rischiava di finire sotto i colpi dei sicari. Siamo a Giugliano, comune dormitorio lungo l'asse mediano di Napoli, nella terra dei fuochi, dove i rifiuti tossici d'ogni tipo continuano ad essere abbandonati negli anfratti più remoti. E qui a Giugliano è cresciuto il magistrato che la camorra vorrebbe uccidere, del piano di un attentato contro Raffaele Cantone, a lungo PM della direzione distrettuale antimafia partenopea, e ora in Cassazione ha parlato un pentito. Il tritolo volevano usare, ha rivelato, minaccia rinnovata recentemente anche per Roberto Saviano. E da molto prima dell'autore di Gomorra, quella di Cantone è una vita sotto scorta, raccontata ora anche in un libro, Solo per giustizia. È evidente che uno rifletta pensando alla propria esperienza, soprattutto quando è un'esperienza sotto questo profilo lunga, pesante da sopportare. Non è un caso che Roberto Saviano, quando lui si trova in difficoltà, chiama me per parlare in qualche modo, anche per farsi confortare, sapendo che io sono quasi un veterano della scorta. Da quanti anni lei vive sotto scorta? Dal 2003. Sotto scorta, però io avevo delle misure di protezione già dal 1999. Vivere sotto scorta è una cosa complessa, perché apparentemente in una prima fase avverti quasi un aspetto di gratificazione, perché tutto sommato è un modo di riconoscere che il tuo lavoro va, ma con l'andare del tempo è una clamorosa limitazione della propria privacy, della propria libertà. Tutta la mia vita, diciamo degli ultimi tempi soprattutto, è... Qualunque cosa faccio, io sono sempre in compagnia. Quando per esempio la mia giornata a Roma, quando vado in Cassazione, io sono con loro la mattina, sono con loro a pranzo, andiamo a mangiare in caserma insieme, oppure vado a dormire in caserma, in una foresteria della Guardia di Finanza. Tutto questo è alleviato dal fatto che con il gruppo si crea poi un rapporto, in qualche modo, se non di amicizia, un rapporto di forte solidarietà, per cui non è un sacrificio poter stare insieme, però complessivamente è una vita molto molto difficile da sopportare. E lei a Roberto Saviano, dopo che queste nuove indicazioni su un'ipotesi di attentato sul suo conto gli avevano portato, così forse distinto, a dire che avrebbe voluto lasciare l'Italia, lei cosa ha detto? Io gli ho parlato più volte, io umanamente lo capisco, perché è giusto che un ragazzo di 29 anni abbia la possibilità di vivere la sua vita. È giusto che un ragazzo di 29 anni abbia la possibilità di fare le cose che fanno le persone della sua età. Io lo vedo in qualche occasione, ci siamo incontrati a Roma, è persino difficile mantenere la possibilità di avere un minimo di privacy per parlare o di fare una passeggiata al centro di Roma. Quindi capisco che lui voglia andare via, o quantomeno per un periodo. Gli ho anche detto però che lui ormai ha assunto un ruolo e quindi ha delle responsabilità rispetto al ruolo che forse suo malgrado gli viene ormai riconosciuto da tutti, e lui è conscio del fatto che, diciamo, ormai sa di avere un ruolo in questa questione, che sì, la lotta alla camorra, ma soprattutto nella grande questione della rinascita del Sud. Chi ha la possibilità di leggere un libro e di leggerlo nella sua visione organica si rende conto che il fenomeno era stato eccessivamente sottovalutato, che si era sempre pensato alla camorra come una mafia di serie B, che tutto sommato si era quasi stata vista come un fenomeno tipico delle grandi città industrializzate. Invece è un fenomeno capace di fare investimenti al nord, è un fenomeno capace di insinuarsi nei grandi lavori pubblici, è un fenomeno capace di essere presente nelle realtà creando grande consenso fra la popolazione, di insinuarsi nelle istituzioni politiche. Questo sicuramente è stato possibile comprenderlo con un libro di quella entità. Lei ha avuto modo anche di incontrare i ragazzi, compresi gli studenti di Casal di Principe, come racconta nel suo libro. Oggi però molti di loro continuano a dire forse Saviano doveva farsi i fatti suoi. La lotta alla camorra non si potrà mai fare solo dal punto di vista militare. Io non darei neanche eccessivo poi peso a certe dichiarazioni, a certe uscite che sono anche un po' manifestazioni di bullismo. Però un dato è certo, io l'ho verificato nelle scuole, che molto spesso questi diventano modelli e bisogna far capire invece quanto questi modelli non possano essere, quanto il modello del camorrista che fa la bella vita sia in realtà uno stereotipo assolutamente sbagliato. Soprattutto i soldati di camorra sono destinati a una fine certa, che può essere di due tipi, o il carcere o la morte. Certo, vedere poi rappresentati sempre in un'ottica negativa crea dei meccanismi a volte anche poi in qualche modo di difesa stupidi, perché si è portati ormai a generalizzare casalesi clan, casalesi persona. Io ci tengo a dirlo con forza: a Casal di Principe ci sono professionisti, persone per bene, persone che nulla hanno a che vedere con la camorra e che pagano il doppio scotto, non soltanto di essere soggiogati alla camorra, ma di dover anche subire questo pesantissimo pregiudizio che viene d'aver dato i natali a molti dei boss che hanno, diciamo, preso il predominio all'interno di questa holding camorristica. Ecco, dottore, lei ha più volte subito minacce esplicite da parte dei boss della camorra e lei si è a lungo occupato, è stata la fase più, diciamo, forse più lunga e più complicata del suo lavoro alla DDA, proprio delle inchieste del Casertano. Tra le minacce che ha subito, dover subire un vero e proprio attentato, si parlò anche di tritolo, è così? Sì, così risultò dalle dichiarazioni di un pentito. Cioè, un pentito raccontò che esisteva un progetto per... Più o meno. Ed era riconducibile alla clan dei Casalesi? Era un pentito collegato al clan La Torre, che però parlava di una vicenda riconducibile ai Casalesi. E questo progetto era considerato attendibile? Sì, il pentito era certamente un pentito che aveva dimostrato in molte altre occasioni di essere a conoscenza di fatti anche di estrema rilevanza e di molta importanza per i processi. Quindi un soggetto molto addentro alle vicende dei clan. Colpisce un po' l'utilizzo di il tritolo, non si era mai visto affiancato alla camorra, ma è ritornato però, anche nelle minacce per Saviano. Però devo dire questo anche perché sia un po' chiaro, diciamo, per dare anche l'esatta dimensione della vicenda, che la camorra sotto questo profilo ha sempre manifestato una grande intelligenza, diciamo, difficilmente la camorra ha toccato uomini delle istituzioni, difficilmente, sono casi rarissimi e sono soprattutto collegati al passato, perché la camorra, proprio perché è una struttura che fa grandi affari, ha interesse a non sollevare l'attenzione, quindi non è detto assolutamente che le minacce seguono i fatti, anzi devo dire che guardando all'esperienza pregressa ci sarebbe da essere abbastanza tranquilli, proprio perché la camorra non è mai passata dalle parole ai fatti, perché sa che cosa significa. Io ricordo un pentito che mi raccontava quanto loro odiassero i siciliani, perché dopo le stragi di Capaci, di Via D'Amelio, c'erano state delle restrizioni incredibili che avevano portato al 41 bis, avevano portato alle videoconferenze, avevano portato alla creazione di una legislazione molto forte. Quindi io credo che siano anche consci del fatto che toccare uomini delle istituzioni o uomini rappresentativi possa essere un danno letale per le loro attività e per le loro organizzazioni. Lei racconta anche, a proposito proprio delle minacce che le erano state rivolte, anche di un episodio ben preciso, di un biglietto che le fu consegnato e poi portato via, di uno dei più importanti latitanti di camorra, ossia Zagaria. Sì, si trattò di un episodio molto strano, ma fino a un certo punto, perché questi esponenti di primo piano della camorra sono anche in grado di interloquire sono anche in grado di capire la rilevanza esterna dei loro atti. Io ebbi la mi fu portato da un avvocato che io conoscevo un biglietto autografo del personaggio che lei diceva, con il quale lui diceva esplicitamente che non aveva mai pensato assolutamente neanche a torcermi un capello, e soprattutto diceva che lui sapeva che in qualche modo io mi ero accanito contro di lui e contro la sua famiglia, ma questo non significava che lui avrebbe mai pensato a fare ritorsioni. E aggiungeva un particolare che secondo me era molto importante per capire anche le logiche in cui si muovono queste persone. Sostanzialmente lui diceva: io sono stato accusato di più gravi reati, ma mai di aver toccato uomini delle istituzioni. Questo è un passaggio molto significativo, che in realtà questi personaggi non si sentono antistato, come qualcuno vorrebbe ritenere. Loro si sentono in tutto e per tutto inseriti nello Stato, tant'è che in qualche modo, a modo loro, rispettano anche le istituzioni. E qual è il modo loro di rispettare le istituzioni? Loro hanno una logica tutta particolare, cioè per loro gli omicidi interni sono sostanzialmente delle questioni interne, tutto sommato sono affari, e quindi per loro esiste un limite. Una cosa sono gli affari interni e una cosa sono gli affari esterni che possono essere i rapporti con le istituzioni. Loro hanno la tendenza a comprarsele le istituzioni, a cercare di insinuarsi, a cercare di renderle conniventi piuttosto che ad attaccarle frontalmente. Questa è la logica, diciamo, che muove le grandi mafie, quelle che fanno soprattutto affari. Tant'è vero che il silenzio permette e favorisce gli affari. Se non sbaglio, tra le prime volte che il nome di Michele Zagaria è rientrato nelle vostre indagini è stato anche nelle inchieste sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Roma. Sì, ci fu un'indagine nel 1996, molto precedente al mio ingresso alla BPA, dove il gruppo che faceva capo a questo personaggio si era occupato di gestire, anche con grande professionalità sul piano tecnico, perché questa è un'altra stranezza di questo gruppo, tutti i lavori che riguardavano la TAV, cioè in pratica il soggetto che si interfacciò con il finto rappresentante delle ferrovie era in grado di garantire non soltanto la pace nei cantieri, ma era in grado di garantire e di individuare ditte che dovevano ottenere i subappalti, ditte che dovevano fare le forniture, cioè era in grado di fornire chiavi in mano la soluzione a tutta una serie di problemi. È la dimostrazione, diciamo, incredibile di come evolve quella che era considerata una mafia di semplici bufalari. Storielle. Storiacce. Il diritto come strumento per concedere dignità alla vita. Questo, secondo le parole di Roberto Saviano, significa indossare la toga quando si nasce nei sobborghi di Gomorra, là dove la camorra abita nelle case del tuo compagno di scuola e si respira fin dall'epoca dei dispetti tra adolescenti. E questo è stato per Raffaele Cantone, per anni in prima fila nelle inchieste sulle famiglie del casertano e ora in Cassazione, dopo essere stato anche tra i principali bersagli dei boss. Anche nei suoi incontri con gli studenti la camorra lo teneva d'occhio. Così il giorno in cui fu invitato a parlare in una scuola di Casal di Principe, Cantone si ritrovò, come racconta nel suo libro sulla giustizia, anche il figlio di un boss. Che percentuale di infiltrazione lei potrebbe stimare dei vari clan camorristici nelle grandi opere campane? Alta, perché ci possono essere imprese che apparentemente non hanno nessun legame con ambienti della criminalità organizzata, però la criminalità organizzata ha modo di insinuarsi in 100 modi, per esempio nei subappalti, attraverso i noli di macchinari, oppure i noli a caldo con gli operai, la possibilità di fornire i prodotti, di garantire operazioni di guardiania. E allora se si guarda, diciamo, questo tipo di infiltrazione, che è un'infiltrazione anche meno visibile, io penso che il livello di infiltrazione in genere è molto molto elevato. Lei racconta, proprio per indicare, diciamo, la potenza di questi clan di cui si è occupato anche dei loro affari, soprattutto immobiliari se non sbaglio, sia in Emilia Romagna che in Lombardia. La esemplificazione principale fu quanto venne accertato a Rosso, cioè la capacità di trasferire nel giro di poche ore dal sud al nord una cifra in contanti pari ad oltre 500.000 euro, a banche chiuse e senza la possibilità di ricorrere a strumenti, a prestiti di finanziarie. Questo gruppo non ebbe difficoltà a trasferire nell'immediatezza perché serviva per un grande affare. Sono in grado di tenere i soldi anche sotto la mattonella e farli fruttare quando è il momento. Questa separazione in due ali differenti emergeva da un'intercettazione in cui questo personaggio raccontava come ormai all'interno di quel gruppo vi era una divisione fra i colletti bianchi e l'ala militare. C'era proprio una fase, un gruppo che si occupava solo di affari, un altro gruppo che si occupava invece delle attività illegali. Questi stessi personaggi capaci di interfacciarsi al nord con le imprese non disdegnano poi al sud di partecipare in prima battuta personalmente attività estorsive, a traffici di armi. Abbiamo trovato persone che sono capaci di interloquire con grossi imprenditori, con faccendieri, parlando con capacità anche tecnica dei lavori pubblici e nello stesso tempo poi essere invischiati direttamente in attività illegali apparentemente da manovalanza. Molti suoi colleghi dopo la strage di Castel Volturno hanno visto dietro quel sangue anche gli appalti per la riqualificazione dell'area. So che è una tesi che è stata avanzata per esempio dai padri Comboniani. Lei però sul clan di Mondragone ha lavorato tanto. Sì. Mi ha colpito nel suo racconto anche un piccolo particolare, quello dei nomignoli che i vari boss si davano, a cominciare dal capo che veniva considerato il re. Si faceva chiamare il re. Hanno una struttura molto simile a quelle delle monarchie, perché i capi hanno una loro regolamentazione autonoma dal punto di vista economico, non danno conto di quello che avviene, gestiscono le ricchezze in un certo modo. Invece gli ultimi, i soldati, sono destinati a fare una vita molto simile a quella degli ultimi della classe sociale, con le stesse difficoltà che ci sono nella società di emergere anche in quei contesti. Queste sono strutture familistiche, lo scettro viene passato da padre in figlio, indipendentemente dalla capacità di dimostrare, fra virgolette, qualità. E questo porta anche a delle notevoli differenze anche in termini di retribuzione all'interno dello Stato. Assolutamente sì. Voi avete anche trovato nelle varie indagini dei, diciamo, libri mastri o dei foglietti, degli appunti che vi hanno permesso un po' di ricostruire anche l'entità di queste retribuzioni? Sì, in molte occasioni i clan poi hanno bisogno di mantenere una contabilità, lo fanno sempre con più difficoltà perché sanno quanto è pericoloso per la loro vita e per la loro gestione, però in molte occasioni noi abbiamo trovato dei libri mastri o molto meno dei fogli di contabilità in cui ci sono proprio veri e propri bilanci mensili, cioè entrate e uscite, ed è veramente interessante vedere come il clan si occupi per esempio di pagare la rata della moto comprata dall'affiliato o persino le spese mediche o che ne so, il pesce per i pranzi natalizi, cioè un'organizzazione, un microcosmo sociale che si fa carico di tutta una serie di problemi così come dovrebbe accadere per una società normale. Lei parla di tanto in tanto nel suo libro anche di alcune figure femminili. Che ruolo svolgono le donne all'interno dei clan della Camorra? Nella Camorra non c'è mai stata una differenza così netta come nella mafia di chiusura verso le donne. Forse i primi capi di organizzazioni criminali femminili sono certamente camorristi. Ci sono stati per esempio le donne della famiglia Giuliano, della famiglia di Luca Bossa, cioè, hanno sempre svolto un ruolo, lo hanno svolto prima di tutto perché potevano fare da interfaccia con i congiunti detenuti e paradossalmente questo ruolo è diventato ancora più forte con i regimi carcerari restrittivi, per esempio il 41 bis. I capi che non sono in condizioni di far avere all'esterno gli ordini hanno necessità soprattutto di utilizzare i familiari e chi meglio delle donne che sono in grado di interpretare cenni, anche piccolissimi segnali per comprendere qual è la loro volontà. Ma c'è di più, spesso dietro le scelte di questi personaggi, se soprattutto decidere di collaborare, se soprattutto fare scelte, diciamo, di vita importanti, c'è fortissima la presenza delle donne. Io l'ho verificato in moltissime occasioni. Un po' come accadde tempo fa, ci sono anche adesso, secondo lei, delle donne che hanno lo stesso ruolo che ebbe tempo fa, ad esempio, Pupetta Marisca? Sì. Quella è una vicenda tutto sommato eccezionale, del resto non è un caso che quella vicenda divenne quasi un romanzo, un feuilleton. Oggi le donne sono inserite nel tessuto organizzativo. Pupetta Marisca, nel caso di specie, andò a vendicare il suo uomo, ma tutto sommato era completamente fuori dagli affari del clan, nulla sapeva. Fu un gesto, diciamo, della moglie e non un gesto della donna del clan. E invece donne che tengano in qualche modo anche la gestione, ci sono state anche delle donne adesso negli ultimi arresti dopo la strage di Castel Volturno, secondo lei ci sono delle figure femminili anche nella gestione proprio dei clan camorristici? Con il ruolo di cerniera sicuramente, comunque svolgono un ruolo spesso da consigliore che è fondamentale. L'ultimo episodio che in qualche modo ha minacciato questo suo tentativo di una vita normale fu quella famosa lettura in aula al processo Spartacus con delle minacce a lei, a Roberto Saviano e a Rosaria Capacchione. Lei che lettura ha dato di quell'episodio? Ancora non sono in grado onestamente di dare una lettura. Certo, sia una vicenda stranissima, perché io non mi sono mai occupato delle indagini del processo Spartacus. Mi sono fatto delle idee, ma sono delle supposizioni. È forse legato anche un po' alla dimensione pubblica che lei, Saviano e la Capacchione avete? Credo ci sia anche questo, però io faccio fatica a credere che sia stata una caduta di stile o così. Io credo che ci sia una possibile chiave di lettura che sono certo i colleghi della DDA prima o poi chiariranno.